726. Siroppo di cedro. Limoni di giardino numero 3. Zucchero bianco fine grammi 600. Acqua un bicchiere da tavola che corrisponde a decilitri 3 circa. Levate dai limoni senza strizzarla la polpa interna, nettandola bene dalle pellicole e dai semi. Mettete l'acqua al fuoco con la buccia di uno dei detti limoni, tagliata a nastro e sottilmente col temperino, e quando comincia a bollire, versate lo zucchero. Aspettate che dia qualche bollore, poi levate la buccia e versate la polpa dei limoni. Fate bollire finché il siroppo sia si ristretto e cotto al punto, il che si conosce dalla perla che fa bollendo e dal colore di vino bianco che acquista. Conservatelo in vaso, possibilmente di vetro. Per prenderlo a cucchiaiate e scioglierlo nell'acqua fresca, si ottiene così una bibita eccellente e rinfrescante, la quale resto meravigliato che manchi fra le bibite dei caffè in diverse province d'Italia.